Che vogliete per me? Mi manca assai una compagnia, ma non so più né chi a parlare e non congiuro mai. Ma I got the blues on me. Oggi i forzi non torni più e camminato senza te. Portavo di e invece parlava coppe sotto sotto stavamo buon. Yeah, I don't know.